24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua alle 7:19 minuti in diretta fino alle 9. Allora si chiude questa settimana di 24 mattino. Siamo anche sulla pagina Facebook 24 mattino, ci trovate. E con Peter Bescapè in regia, di cosa parleremo più avanti? Beh, avremo Lucia Annunziata, alle 8:20 parleremo di questa vicenda di Serena Dandini, che non sarà più, pare, in Rai. Insomma, che succede in Rai, e dopo Santoro anche la Dandini. E poi parleremo dell'Italia, delle caste, delle piccole grandi caste. Qualcuno dice che uno degli emblemi delle caste in Italia sono gli ordini professionali. Sapete che durante la discussione della manovra qualcuno ha cercato di istituire nuovi albi, nuovi ordini professionali. Ne parleremo alle 8:30. Avremo anche Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, che con Sergio Rizzo ha scritto un nuovo libro, Licenziare i padreterni contro le piccole grandi caste in Italia. Ma da cosa iniziamo? Beh, dai giornali d'edicola. Indovinate di cosa sono pieni oggi di indiscrezioni, insomma, i giornali che potete trovare. Venerdì 16 settembre, a parte il Sole 24 Ore che apre sulla situazione finanziaria, ai mercati, la manovra, maxi liquidità dalle banche centrali, questo è il titolo di apertura di prima pagina, e poi è un profluvio di foto, titoli sulle escort. Io prima ironizzavo dicendo che comprare i giornali quotidiani oggi sembra quasi comprare Playboy, insomma, con tutto il rispetto, tantissime foto di belle ragazze nelle prime pagine. Allora, il Corriere della Sera, le nuove carte su escort e favori. Per Repubblica, tutte le escort di Berlusconi. Per La Stampa, 30 ragazze per il Premier. Libero, persecuzione giudiziaria, Silvio arrenditi, sei circondato. Il Messaggero, escort e appalti, le nuove accuse. Per Il Fatto Quotidiano, 35 prostitute per lui. Mentre Il Giornale punta su Il Giornale deve tacere, è la vicenda dei nastri Unipol. L'Unità fa una scelta diversa, a parte il governo prigioniero delle escort in alto, ma l'apertura è dedicata a assalto all'acqua. Sacconi minaccia, si mette in discussione il referendum. L'opposizione è inaccettabile. Questi alcuni titoli, mentre anche il Manifesto, l'ultimo bacio, sesso in cambio della conduzione del Festival di Sanremo, il regalo elettorale delle telefonate tra Fassino e consorte, insomma, le inchieste giudiziarie. Le vedremo tra poco dopo la pubblicità e il meteo, non mancheremo certo, anche perché leggere i giornali vuol dire leggere soprattutto quello oggi. Ma da cosa voglio partire? Beh, Libero con Franco Bechis è andato ad ascoltare ciò che succede nella Commissione Affari Costituzionali e pubblica alcuni sbobinati di quello che si dicono i membri di questa commissione. Il piano dei senatori per non tagliarsi più. Così Franco Bechis, le balle dei senatori per non dimezzarsi. Dimezzare i parlamentari? Nemmeno ci pensano. Dopo il lungo balletto delle promesse e delle dichiarazioni, è arrivata l'ora della verità davanti alla Commissione Affari Costituzionali del Senato. E allora, siccome queste dichiarazioni non le troverete pubbliche, ma sono, diciamo, negli stenografici della Camera, Franco Bechis è andato a spulciare i riassunti dei lavori della Commissione Affari Costituzionali. Sentite un po' alcuni dei deputati che vi hanno preso parte. Antonio Battaglia contesta l'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari sotto la spinta emotiva dell'opinione pubblica. Filippo Saltamartini, le proposte di ridurre il numero dei parlamentari hanno un significato populista e demagogico, semmai si dovrebbe promuovere un rinnovamento della classe dirigente. Giuseppe Saro, tutti i parlamentari, spiega che tanto si sta parlando di aria fritta, in modo accademico, a causa della prevedibile fine anticipata della legislatura. Domenico Benedetti Valentini, il tema non dovrebbe essere trattato in un clima condizionato dalle pressioni irrazionali dell'opinione pubblica, aumentate e strumentalizzate da alcuni mezzi di informazione. Insomma, avete capito, cari ascoltatori, non si può dire nel segreto delle commissioni, perché poi questi atti appunto sono stenografati, sono pubblicati, però non sono dichiarazioni pubbliche, ma quando si riuniscono in commissione le sedute non sono pubbliche, ecco il riassunto dei lavori per Libero è questo. Dai riassunti dei lavori il piano dei senatori è quello di non tagliarsi più. Si capisce, scrive Libero, che il dimezzamento dei parlamentari non si farà mai. La storia che voglio raccontare prima della pubblicità viene da Torino, è una storia che sta spaccando l'opinione pubblica su questo tema molto delicato. Repubblica vi dedica una pagina, così La Stampa due pagine, anche Il Giornale una pagina. Troppo anziani ed egoisti per essere dei bravi genitori e la figlia sia data in adozione. Una sentenza shock da parte del Tribunale dei Minori di Torino. La madre ha partorito a 57 anni, il padre ne ha già 70. Anche per La Stampa, i genitori, non è tanto la questione dell'anzianità in sé, ma è, secondo la sentenza del Tribunale dei Minori, una scelta che si fonda sulla volontà di onnipotenza, sul desiderio di soddisfare a tutti i costi i propri bisogni, che implicano l'accantonamento delle leggi di natura. La circostanza che la sproporzione tra la propria età e quella della bimba sia un dato trascurato è un segnale di un funzionamento severamente disturbato. Insomma, per questi ed altri motivi, immagino, è stata tolta una figlia. Questi due genitori che l'hanno avuta, lei 57 anni e lui 70, e la figlia è stata dichiarata adottabile. I giudici hanno ritenuto, racconta Repubblica, che la piccola sia il frutto di un'applicazione distorta delle enormi possibilità offerte dal progresso in materia genetica, e la volontà di concepirla è una scelta che, se spinta oltre certi limiti, si fonda sulla volontà di onnipotenza, appunto, sul desiderio di soddisfare a tutti i costi i propri bisogni, che necessariamente implicano l'accantonamento delle leggi di natura e una certa indifferenza rispetto alla prospettiva del bambino. I giudici Donata Clerici, Federica Florio, Alberto Arastesano e Silvia Truffo hanno detto: i genitori non si sono mai seriamente posti domande in merito al fatto che la figlia si ritroverà orfana in giovane età e prima ancora sarà costretta a curare genitori anziani che potrebbero avere patologie più o meno invalidanti proprio nel momento in cui giovane adulta avrà bisogno del sostegno dei suoi genitori. Per tutti questi motivi, tolta la figlia, e le polemiche ovviamente su questa decisione, con anche commenti che trovate sui giornali, impazzano. 24 mattino. Eccoci alle 7:34 minuti. Allora, per continuare la lettura dei giornali, è inevitabile. Oggi i giornali sono pieni di nuove indiscrezioni e anche qualche intercettazione, poche per la verità, sulla vicenda che proviene da Bari, sulla questione dell'indagine ai danni di Giampaolo Tarantini, vale a dire l'accusa è quello di avere portato, chi dice 30, chi dice 35, chi dice 40 ragazze disponibili a prestazioni sessuali nelle feste con il presidente del Consiglio in cambio di aver ottenuto dei favori da parte di Giampaolo Tarantini, dallo stesso presidente del Consiglio, di ingraziarsi il premier. Questa è l'accusa. A Bari sono indagati, oltre a Giampaolo Tarantini, suo fratello Claudio, la cosiddetta ape regina Sabina Began, un avvocato, Salvatore Castellaneta, un manager, due aspiranti attrici, eccetera. 100.000 le intercettazioni, 100.000, avete capito bene il dato. Dal premier 40 ragazze, titola per esempio a pagina 2 il Corriere della Sera. Per esempio si evince che due volte fu reclutata Sara Tommasi, showgirl diventata nota per aver partecipato all'Isola dei Famosi, che ha accettato soldi in cambio di prestazioni sessuali, mentre è emersa anche la vicenda di un'altra attrice, Manuela Arcuri, che è stata, secondo l'accusa, avvicinata, contattata da Giampaolo Tarantini attraverso un'amica, ma si è rifiutata, insomma, era stato anche promesso a lei la conduzione del Festival di Sanremo e un posto di lavoro per suo fratello, ma alla fine non se ne fece nulla. Chi mi porti stasera? Questa sarebbe una delle frasi maggiormente ripetute dal Presidente del Consiglio al telefono con Giampaolo Tarantini. E l'accusa dice: le voleva soprattutto esili, magre, che si presentassero con delle scarpe molto basse. Insomma, Questo è il livello di quello che trovate sui giornali. Giampi, chi mi porti questa sera? E questo è il titolo a pagina 3 di Repubblica. Silvio le preferiva esili e senza tacchi. E tra l'altro c'è anche questa indiscrezione secondo la quale Giampaolo Tarantini in una delle intercettazioni avrebbe detto: ho più di 25 anni, avrei un sogno, quello di fare il deputato europeo. Per favore Silvio, candidami. Ovviamente c'è anche una serie di interviste da parte di Sabina Began, intervistata un po' ovunque, da Libero, dal Fatto, da Repubblica. Dice: facevo tutto questo per amore, giusto dare una mano al premier. A Repubblica, per esempio, l'Antonello Caporale ha anche detto: io sapevo, e quando mi sono accorto che quando Giampaolo Tarantini usava droga, gliel'ho detto, è una cosa sporchissima e bruttissima, e gliel'ho detto subito a Silvio e gli chiesi di allontanarlo. Come detto, invece, la Manuela Arcuri sembra diventata un po' una sorta di star anche del web, una sorta di eroina, colei che ha resistito, secondo le carte, a queste avance, a queste proposte. L'Arcuri, dopo il rifiuto, diventa una star del web, titola per esempio in un'intera pagina 5 il Corriere della Sera. Poche dichiarazioni, anzi nessuna voglia di parlare, racconta Fabrizio Roncone, che la raggiunge sul set di una fiction che sta facendo. Non ci credo, santo cielo, non ne posso più di essere tirata dentro queste brutte vicende. Incredulità, rabbia, tanta rabbia, si fa leggere tutte le agenzie, ma insomma nessuna dichiarazione. Invece fa qualche dichiarazione Belen Rodriguez, che anche lei è finita in queste intercettazioni. Perché? Perché in un'intercettazione il premier Berlusconi, saputo che Belen Rodriguez si era lasciata con Marco Borriello, che tra l'altro in quel momento era un attaccante della squadra del Milan, della squadra di Berlusconi, l'ha chiamata dicendo: ho saputo che con Marco è finita, sei molto bella, vieni qui, insomma, a una cena. E Belen al Corriere dice: non ci andai, erano giorni tristi, rifiutai, gli dissi che ero troppo depressa per uscire con chiunque, mi ero appena lasciata appunto con il mio fidanzato Marco Borriello. Sta di fatto che Iena sintetizza tutto sulla stampa così: candidati, il PD ha finalmente trovato il suo candidato premier, Manuela Arcuri. Sta di fatto che le telefonate, le intercettazioni sono appunto 100.000, sui giornali però non c'è molto, tanto che secondo qualche indiscrezione, per esempio l'Unità, lo stesso Berlusconi avrebbe detto finalmente una procura seria, quella di Bari, cioè una procura che ha vagliato tutte le telefonate e ha messo negli atti solo le telefonate che avrebbero una rilevanza penale. Anche se qualcun altro dice: beh, attendiamo, sono state depositate ieri, sono 100.000, c'è il timore da parte di qualcuno che possano uscire giorno per giorno. Certo c'è, secondo la stampa, secondo Ugo Magri a pagina 3, il timore soprattutto su una telefonata, la famosa telefonata sulla quale tutti si interrogano, c'è stata o non c'è stata, in cui Berlusconi avrebbe espresso apprezzamenti molto volgari nei confronti di Angela Merkel. La telefonata sulla Merkel è l'ultimo incubo di Silvio, pagina 3 della stampa. Nel suo entourage sperano che non esca dalla procura di Bari. È l'ultimo incubo berlusconiano, quella che Ugo Magri definisce l'intercettazione killer, nel senso che se fosse pubblicata sui giornali il governo del Cavaliere non avrebbe scampo. Si parla anche di un conciliabolo ieri tra Berlusconi, Letta e Frattini, e che la Farnesina abbia già pronte le lettere di scuse alla Merkel e agli altri leader stranieri eventualmente ingiuriati via telefono. Ieri però, insomma, c'era questo timore che uscisse o non uscisse. Per dire, il Foglio in prima pagina del commento politico dal titolo "Sotto colate di melma la politica chiude per eccesso di puzza" mette insieme anche questa notizia che ieri veramente poi uno vuole non fare dell'ironia, ma ieri si è diffusa la notizia: in Parlamento è stata sospesa la seduta per un fetore incredibile che si è sparso nell'aula per dei bocchettoni dell'aria condizionata che hanno creato un problema di respirazione, quindi hanno dovuto abbandonare tutti l'aula. E allora il Foglio lo scrive: i deputati abbandonano l'aula, prima la spicciolata, poi in massa di corsa si svuotano i banchi del governo, la seduta è sospesa, il ministro Fitto si abbandona a una battuta, ci stanno gasando. La seduta è sospesa per puzza. E certo, la notizia si presta a battute facili, forse un problema dell'aria condizionata. Scrive il Foglio, qualcuno dice forse, per esempio l'ex ministro Landolfi, vedendo le foto delle ragazze di Arcore, forse è da lì che viene la puzza. Insomma, sta di fatto che è una metafora di quello che sta succedendo certamente in Italia dal punto di vista della politica. Per esempio, io che devo dire? Sul Fatto Quotidiano trovate oggi in prima pagina, prima l'abbiamo anticipato, questa notizia. Io la do così perché è una notizia che il Fatto dice è un'esclusiva nostra, una nuova testimone. Rivela il Fatto alcune delle scene avvenute durante i cosiddetti bunga bunga. Silvio infilava il crocifisso fra le tette di Nicole Minetti. A pagina 8 Davide Vecchi racconta, ecco un'altra testimone delle notti di Arcore, pronta a dire tutto in tribunale. A fine spettacolo si è avvicinato a Nicole e con il crocifisso in mano le ha detto «Dio santo ti benedica». Poi ha fatto il segno della croce sul corpo di Nicole. Lo faceva sempre, era la specialità del presidente, benediceva e toccava. E mi fermo qui, insomma, poi tutto l'articolo si dipana, ma questo potete leggere, ripeto, sulle prime 10, 12, 15 pagine dei giornali oggi in edicola. Il giornale invece accusa la Daddario, fu reclutata da chi? Dall'uomo di D'Alema. Ricordate quando D'Alema annunciò Urbi et Orbi, una scossa imminente per Silvio Berlusconi, lo fece nel programma di Lucia Annunziata in mezz'ora? Beh, era collegato dalla masseria nel Salento, il cui proprietario era un avvocato pugliese, Salvatore Castellaneta, che è finito al centro del filone stralcio di Finmeccanica ed è indagato in questa vicenda. Tarantini, indagato per prostituzione l'avvocato Castellaneta, e proprio dalla masseria di cui lui è proprietario, l'ex premier parlò in quell'intervista in diretta di scossa anticavaliere. C'è anche, come dire, del surreale, dell'emblematico in tutta questa vicenda. Beh, la leggo sempre dal giornale. Certo, è messa come spillo, no? Come una puntura, come un qualcosa di fastidioso. Sabina Beganovic, che è una delle indagate di questa vicenda, beh, dagli atti dell'indagine, visto che sono stati notificati anche a lei, si scopre l'indirizzo dove abita a Roma. Detto senza malizia, scrive il giornale, la Began abita a Roma in via delle Zoccolette. C'è molto anche altre vicende giudiziarie, come la questione del nastro Unipol, caso Fassino consorte, il GIP chiede il processo anche per Berlusconi e dunque una nuova richiesta di processo per una vicenda per la quale è già rinviato a giudizio il fratello Paolo Berlusconi. Questo racconta i dettagli a pagina 9 La Stampa, il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella, un'intercettazione che se gliela diamo a Berlusconi vince le elezioni, questa fu la frase di colui che riuscì a recuperare questa intercettazione e secondo l'accusa la portò proprio ad Arcore, a Paolo Berlusconi, a Silvio Berlusconi, per poi questa intercettazione farla finire su Il Giornale, allora diretto da Maurizio Belpietro, che anche lui è indagato in questa vicenda. E l'intercettazione è la famosa: abbiamo una banca di Fassino che chiedeva a Unipol, a Giovanni Consorte, il numero uno di Unipol, appunto scalatore della BNL, poi bloccato dai PM per aggiotaggio, faceva questa domanda. Allora abbiamo una banca. Su questa vicenda ora c'è la richiesta del rinvio a giudizio anche per Silvio Berlusconi. E ripeto, qualcuno lo chiama Operazione Verità, qualcuno lo chiama fango. Sta di fatto che oggi del gran fango e tanti sassolini dalle scarpe se le toglie la moglie di Italo Bocchino, la ex moglie, per la verità, la moglie separata di Italo Bocchino, che in un'intervista al Corriere della Sera, da cui ripartiamo dopo il traffico, spara zero. Italo mi tradiva senza rispetto, la vicenda Carfagna, 3 anni di dolore. E allora eccoci qua, un'altra intervista a pagina 13 del Corriere, che farà discutere se non altro perché c'è una ex moglie molto ferita, la ex moglie di Italo Bocchino, che si toglie tanti sassi dalle scarpe nei confronti del suo ex marito. Gli lascio le bambine quest'estate che vogliono stare con lui, padre splendido, e lui che fa? Si porta una signora bionda nella nostra casa di Panarea o sulla barca. È assurdo, soffre di cretinismo da separazione, colpisce anche gli uomini più intelligenti. E poi sentite, parla della vicenda Mara Carfagna, insomma, mi sono sentita tradita con una che per stessa missione di mio marito è una nullità. Beh, questo è veramente duro. Quando ho scoperto che mi tradiva con Mara Carfagna, quante bugie mi diceva, ma il problema non è lei, il problema è lui, perché lei, poverina, è quello che è. Infatti dal 15 marzo è scomparsa, non sa che dire, le scriveva tutto italo, non sa parlare in italiano, usare soggetto, verbo e predicato. E poi la domanda, l'intervista di Angela Frenda, cosa gli piaceva della Carfagna? E qua una stilettata dell'ex moglie, intanto è piaciuta a tanti. Ha una bella presenza, ci sono persone con cui trascorri una sera, fai quello che devi fare. Italo la usava come un giocattolo. Me lo diceva lui, guarda cosa le faccio dire. Insomma, poi va avanti, trasuda veleno a ogni risposta. Stiamo cercando di limitare i traumi con le figlie, anche se leggo nei loro occhi, soprattutto nella più grande, molto dolore. Insomma, un'intervista nella quale veramente riversa tanto veleno, tanta amarezza all'ex marito Italo Bocchino, questo la ex moglie Gabriella Buontempo. Insomma, c'è anche questo, e poi arrivano le critiche, leggete altro, eccetera. Ma adesso leggo altro, ma cosa devo fare? I giornali propongono questo nelle prime 10-15 pagine, non è che mi posso inventare dei giornali paralleli che raccontano delle cose diverse. Poi, ripeto, ci sono, certo, e siamo d'accordo, le cose molto, molto più serie, la situazione finanziaria del paese, la situazione della manovra, il Sole 24 Ore apre su questo, per esempio sulla notizia, sulla novità della maxi liquidità garantita dalle banche centrali, la Banca Centrale Europea che scenderà in campo con la Federal Reserve americana, gli istituti centrali di Giappone, Regno Unito e Svizzera per garantire che cosa? Garantire liquidità in dollari per tutto il 2011 alle banche europee, una notizia molto importante, nel senso annunciate 3 nuove operazioni per garantire i finanziamenti al credito europeo. Tutto questo nel giorno in cui da domani, cari cittadini italiani, aumenta l'IVA, è ufficiale. La manovra è approvata, dal 20 al 21% sale l'aliquota ordinaria. Tutti i dettagli li trovate a pagina 18 del Sole 24 Ore, e questo sempre nel giorno in cui il Centro Studi Confindustria ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita, con la comunicazione che è una comunicazione abbastanza fredda all'inglese, fa sapere Rossella Bocciarelli a pagina 10 del Sole, ma in realtà la sostanza del messaggio è drammatica. Le nuove stime presentate dal Centro Studi vedono infatti una crescita attestata allo 0,7% per poi scivolare allo 0,2% l'anno prossimo. Non so se avete colto, 0,2% la previsione dell'anno prossimo, praticamente una crescita zero, una crescita ferma. Tanto che per il secondo giorno consecutivo il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha ribadito, il governo deve agire sullo sviluppo, di fare le riforme strutturali, altrimenti ci saranno gravi responsabilità. In tutto questo la notizia come coglierla, che viene dalla Svizzera, è anche questa, se si vuole, anche surreale, un po' emblematica del momento, di una truffa alla UBS. Una truffa che ha portato alla scomparsa di 2 miliardi di dollari, la più grande frode mai subita da una banca svizzera. Ne parlano tutti i giornali. L'articolo che più mi ha colpito è del Secolo XIX, a pagina 9, a firma di Francesco Margiocco. È la vicenda di un trader della banca, Kweku Abodoli, 31 anni, di origine ghanese, accusato di aver fatto perdere al colosso bancario in una notte 2 miliardi di dollari. Si sono accorti della truffa, l'hanno arrestato nel giro di 3 ore, un arresto doloroso, hanno commentato gli azionisti e i vertici della UBS. hanno detto: abbiamo messo al sicuro comunque i nostri clienti, nessuno di loro è stato danneggiato. Ma insomma, la più grande truffa di sempre forse fu quella nell'ottobre 2010 di Jérôme Kerviel, condannato a 3 anni per aver fatto sparire dalla Société Générale 4,9 miliardi. Ma insomma, far sparire 2 miliardi di dollari in una truffa, davvero ce ne vuole. Ce l'ha fatta, ma è stato arrestato questo trader di origine ghanese che lavorava alla UBS in Svizzera. C'è anche molto, giusto per concludere, per lanciare quello di cui parleremo alle 8:20, lo faremo con Lucia Annunziata, conduttrice di Rai, in Rai 3 di In Mezz'ora, e anche ex presidente della Rai, di quello che sta succedendo in Rai. La Rai licenzia la Dandini, è un altro pezzo dopo Santoro che in Rai va via. La conduttrice dice: è un attacco politico, è una scelta politica. Il CDA della Rai ha bocciato il suo programma Parla con me, che doveva ripartire il 27 settembre, ma così non sarà. 24 mattino. Ed eccoci allora alle 8:22 minuti, cari ascoltatori. Allora, vogliamo capire che cosa sta succedendo in Rai, dove oggi leggiamo sui giornali, per esempio il Giornale è molto chiaro: fuori due, la Dandini parla da sola, dopo Santoro anche la Dandini bocciata nel suo contratto. Ne parliamo con la conduttrice di In Mezz'ora su Rai 3, Lucia Annunziata. Buongiorno e ben ritrovata, Annunziata. Buongiorno. Senta, lei è stata molto dura, ha parlato di una vergogna di questo bocciatore di contratto. Beh, certo, anche credo che il titolo del giornale poi, come dire, mi salvi un sacco di tempo, no? Cioè, è evidente che dietro la bocciatura di questo contratto c'è la solita lista politica di Trani, né si può pensare differentemente. Il contratto è stato fermo per tre mesi sul tavolo della DG, ci sono state delle trattative, la società che lo produce e anche Serena Dandini sono stati, a mio parere, molto disponibili alle richieste dell'azienda, tant'è vero che c'è stato anche un 6% di diminuzione di prezzo. Tutto sembrava pronto, la bocciatura a fronte di tutto questo è veramente incomprensibile. Cioè, quello che dico è che con Santoro uno può anche dire c'è un incredibile scontro politico, ma con la Dandini non c'è nessuno scontro se non quello di fare fuori tutti quelli che sono della lista di Trani. La lista di Trani, intendo, cioè, dire la telefonata tra il premier e Saccardi. Quindi è Berlusconi che di fatto è il mandante. Guardi, il problema è Berlusconi è tutto e nessuno ormai, no? Cioè, cioè Berlusconi è un'entità antropomorfa di tutti quelli che si sentono berlusconiani. Cioè, tra l'altro è un atto veramente autolesionista del Consiglio, perché i nostri ascoltatori, anche loro che non sanno niente di tutte queste vicende, possono immaginare che se tu hai uno spettacolo 4 serate a settimana e la stagione iniziata lo cancelli, vuol dire che hai chiuso il teatro per mesi. Questo è un danno aziendale che chiaramente, insomma, è un atto di autolesionismo da parte del Consiglio. Ma lei ha detto, se è stato fatto perché lo si voleva fare. Lei ha detto fare un atto di autolesionismo. Non obbedirò più dal CDA, lei ha detto. Che vuol dire? Sì, cioè, cosa può fare per... Ma CDA, intanto il CDA non può fare proprio niente, perché voglio vederli francamente a tentare di imporre le loro regole e regolette amministrative a ormai, diciamo, quello che noi dobbiamo fare. Ma il CDA può fare richiami, il CDA per esempio hanno approvato, CDA, il direttore generale, hanno approvato una delibera che dice che noi per parlare dobbiamo avere il permesso 72 ore prima, cioè, voglio dire, queste robe che in un'azienda editoriale chiaramente non hanno senso, tutte queste loro regole e altre cose possono essere tranquillamente sfidate, non che sia importante il mio gesto, perché francamente uno comincia anche a dubitare a questo punto che abbia veramente un senso stare in Rai. Io sarò l'ultima persona ad abbandonare il servizio pubblico, però si pone il problema. Però lei si pone il problema, dice: che ci faccio qui in Rai? Ma certo, se il rischio a questo punto è quello di fare la foglia di fico di un'operazione di smantellamento. Con questo non intendo dire che so contrattative con nessuno, perché non è così che mi muovo. Finché lavoro in un'azienda starò in questa azienda, però francamente a questo punto non ne faccio una questione politica, e credo che chi mi ascolti sa che, nonostante io abbia opinioni politiche molto serie, ho sempre cercato sempre di mettere avanti la mia professione, ma la mia professione è il giornalismo. giornalismo e io voglio un'azienda editoriale. Qui si tratta di un'azienda editoriale che non funziona più. Rai 1 è all'8%, Rai 2 è vuota, Rai 3 aveva delle cose che sono state portate via. È questa un'azienda da un punto di vista editoriale? È questo quello per cui i cittadini pagano il canone? La questione del fatto costava troppo, è vero che la Dandini ha chiesto diminuiamo un po', però si diceva 14 autori, insomma una struttura mastodontica. Guardi, ieri il direttore generale Lorenzo Lei, che nella sua vita ha fatto solo contratti prima di fare il direttore generale, era arrivato con un accordo sul tavolo del CDA. Allora, o Lorenzo Lei ha sbagliato accordi, oppure il CDA vuole fare qualche cosa che sia chiaramente di autodistruzione della RAI. E sa che come me lo spiego io? La RAI si dice sempre che anticipa le vicende della politica del paese, in questo caso non le anticipa neanche, ci va insieme, è la fine di un sistema e in RAI ci si sta accodando, secondo me anche psicologicamente, alla fine di questo sistema. Ah, dice. Cioè, è un voto di menefreghismo ancora prima che politico. E va bene, un'ultima domanda, va via Santoro, va via la Dandini a questo punto, va via anche Paolo Ruffini con il quale lei ha avuto anche uno scontro, no? Direttore di Rai 3, va alla 7, vi siete un po' riappacificati? Poi lui adesso... io e Paolo ci siamo ampiamente riappacificati, abbiamo avuto poi io e Paolo lavoriamo da tanti anni insieme e ci conosciamo molto bene, il mio carattere è quello di essere forse un po' impetuoso ma sicuramente chiaro, e voglio dire, le critiche, io sono del parere che non è che quando si è sotto attacco bisogna stringere i denti e essere sempre d'accordo. Se uno è in disaccordo su delle cose, semplicemente le dice, oltretutto siamo giornalisti, non siamo in un'organizzazione di partito. Io ho esercitato la mia libertà di criticare Paolo. Paolo ha pesantemente in vari casi criticato me, sia pure in maniera un po' più meno pubblica di come ho fatto io. Ma e basta, vi siete scontrati. Posso anche confermare alcune delle critiche che ho fatto alla gestione di Rai 3. Questo non significa che io non veda il trend generale che ha portato Ruffini fuori. Non le chiedo delle intercettazioni, so che non so, vuole esercitarsi sulle ultime. Non mi sembra il mio mestiere, non le conosco, devo dire, non le ho neanche lette. Vabbè, non è il suo mestiere, fa la giornalista. Cioè, immagino che in questo momento non so chi ce l'abbia, chi le abbia lette, intendo dire che non ne so più di lei, capisce? No, neanche l'Arcuri che in cambio di una promessa di Sanremo però non è andata. Quella è una cosa molto... Pare il nuovo idolo dell'opposizione, insomma. Ma non è questo. Vede per esempio il problema della RAI? Il problema della RAI è questo. La RAI è moneta spendibile in politica, persino su questo. Se è vero quello che dicono i PM, per portarsi a letto una persona uno può promettere Sanremo. Ora, voglio dire, è come uno che dice io mi voglio portare a letto una signora e allora le prometto, essendo un dirigente Telecom, gratuitamente l'abbonamento a DSL. No, cioè, voglio dire, il livello di mercificazione che c'è intorno alla RAI viene fuori anche da questa storia. Allora, lei pensa alla storia del no, del sì, della virtù. Sì. Io questa storia l'ho vista non come una storia di virtù, ma va benissimo che mi fa piacere che l'Arcuri non abbia detto di no per se stessa, sì. Ma in questo caso quello che mi colpisce è che la RAI c'entra sempre ed è sempre in questo sistema sotto forma di mercimonio. Perché la RAI è politica, poi di fatto si intreccia. La RAI è l'editore della RAI è il Parlamento. Non è che la RAI è politica perché è corrotta. Allora, o se la si sottrae al Parlamento, o questa è la situazione. Però è la politica, è l'editore che sbaglia. Intanto io la ringrazio, buona giornata, staremo a vedere che succede. Grazie a Lucia Annunziata per essere stata con noi, conduttrice di In Mezz'ora su Rai 3. Allora, noi ripartiamo, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, tra poco. L'Italia della casta è anche, secondo molti, l'Italia delle tante caste. E che cosa rappresenta le caste in Italia? Per esempio un emblema, gli ordini professionali, tra cui ci siamo anche noi, l'ordine dei giornalisti. 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti, siamo il paese della casta per eccellenza, qualcuno dice la casta dei politici, ma anche il paese delle piccole grandi caste, dei piccoli grandi orticelli da preservare, da mantenere, dei fortini da non fare spugnare. Qualcuno li identifica anche negli ordini professionali, tra cui c'è anche il nostro, quello dei giornalisti, insomma l'Italia degli ordini professionali. Tra l'altro il sondaggio di nostro di oggi, volete, vorreste l'abolizione degli ordini professionali, su radio24.it votate per ora, l'88% dice di sì. Credo che sia, non, ma non lo so, dia soddisfazione a Gian Antonio Stella del Corriere della Sera, che saluto. Buongiorno Gian Antonio e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Questo è un po' il polso della situazione dei nostri ascoltatori. Tra l'altro Gian Antonio Stella con Sergio Rizzo è uscito con il nuovo Licenziare i Padri Eterni, edito da Rizzoli, l'Italia tradita dalla casta. Insieme a Gian Antonio Stella ne vogliamo parlare con la senatrice Rossana Boldi della Lega. Buongiorno senatrice. Buongiorno a tutti. Che ha proposto un disegno di legge per formare, per creare alcuni nuovi ordini professionali. Nello specifico io leggo ostetriche e ostetrici, infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia. No. E gli ordini vengono creati per aree. È andato bene fino a quando ha parlato di ostetriche, infermieri. Sono andato bene fino a lì. Sì, è andato bene. Sì. Poi invece tutte le altre 20 professioni sanitarie vengono accorpate per aree, quindi area riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione. Però il principio, senatrice, sono 5. Certo, il principio è questo, ma come? Si vogliono creare nuovi ordini, proprio quando l'Europa ci dice di aumentare la concorrenza, di liberalizzare le professioni, noi vogliamo creare nuovi ordini invece. Sì. Allora, intanto per quello che riguarda le professioni sanitarie, l'Europa non ci ha mai detto di liberalizzarle, perché liberalizzare le professioni sanitarie, mi scusi, ma mi sembra un po' difficile, anche perché se c'è una materia nella quale c'è una simmetria tra le conoscenze dell'esercente la professione e le conoscenze dell'utente, che in questo caso è il paziente, riguarda proprio tutte le professioni sanitarie. E il fatto che ci sia questa simmetria è una delle cose che persino il garante della concorrenza, persino l'Europa, riconosce come uno dei motivi per cui ci può essere tutela di una professione. Lei sa che però il dibattito... L'altro problema è il problema della distorsione che crea sul mercato l'abusivismo, del quale lei sa che le professioni sanitarie su questo siamo d'accordo. No, su questo siamo d'accordo. Se uno deve creare un ordine perché deve dare uno stop a chi è un abusivo, esercita una professione soprattutto delicata come quella in campo sanitario, fuori dalle garanzie per tutti noi, questo è sacrosanto. Però senatrice, nel momento in cui si discute il dibattito, forse è il caso di abolirli tutti questi ordini professionali, il fatto di proporne 5 nuovi, capisce che insomma stona un po', stride un po'. Infatti vi hanno fermato in Parlamento, c'è stata anche quasi una, non dico una sommossa, ma qualcuno dice Non c'è stata una sommossa, ci siamo fermati per un problema di tipo tecnico. Il provvedimento è solo sospeso, come ha dichiarato il Ministro della Salute. Io spero che si possa risolvere questo problema tecnico che riguarda le sanzioni e tornare in aula al più presto. Sì. Ma detto questo, mi lasci dire questo in generale per quello che riguarda gli ordini. Io credo che la gente immagini, quando si parla di ordini professionali, il modello ordine professionale, per intenderci, degli avvocati, ad esempio, quale l'ordine e l'ingresso all'ordine costituisce effettivamente una barriera ad entrare nel mondo della professione. Perché? Allora, deve sapere invece che tutte queste nuove professioni sanitarie, siccome sono state pensate abbastanza recentemente, oddio, è un recente che ormai risale a 20 anni, ed è da 20 anni che queste professioni aspettano di concludere il loro iter. Però le lauree di queste professioni sono, come invita a fare l'Europa, direttamente abilitanti. Sì. Quindi non c'è un esame di Stato che blocca, perché noi pensiamo che il blocco sia costituito dagli ordini, mm-hmm. e questo è vero quando gli ordini, come succede per gli avvocati, vanno in autodifesa e limitano. Che ce l'ha, con gli avvocati? Non so, gli avvocati, perché io credo che quando alla gente si chiede se vuole l'abolizione tutti agli ordini degli avvocati. Direttamente all'ordine dell'avvocato. Non lo so, sentiamo Gian Antonio Stella, intanto l'ha convinta queste motivazioni. A me convince quella del tutelare di fronte al rischio di abusivi, che insomma è una cosa importante, ma è per questo necessità. No, perché ride Stella? Ma perché gli ordini? Io non ho ovviamente nessuna, cioè, non è un tabù, ecco, l'ordine. Possono anche tenerli, però o cambiano radicalmente o tenerli così vanno aboliti tutti. Cioè, o l'ordine tiene ordine oppure non serve un fico secco. E questo punto, tutto il resto sono chiacchiere, amabili chiacchiere, nel senso che se un ordine professionale deve aspettare una condanna in Cassazione per sospendere uno, a cosa serve? C'è già la condanna in Cassazione, fine. Perché ci sono se l'ordine intervenisse subito a salvaguardia dei cittadini, dei clienti, eccetera, eccetera, allora il discorso è diverso. Però voglio dire, un'infinità di casi negli ultimi anni dimostrano che non è così. E quindi tutto il resto sono sciocchezze. Cioè, nel momento in cui tu non sospendi metti fuori dall'ordine degli avvocati l'avvocato Previti dopo due sentenze in Cassazione, che con l'accusa di avere comprato delle sentenze dai giudici, cioè il reato più grave che possa commettere un avvocato, di cosa stiamo parlando? Sono chiacchiere. Cos'è che tutela l'ordine? Che cosa? L'abusivismo nella professione di chi? Di qualche avvocato giovane o di qualche avvocato condannato addirittura in Cassazione che non si riesce a mettere fuori? Questa è la grande contraddizione. Cioè la sensazione istitutiva, chiedo scusa, sì. Secondo la vecchissima legge che regola gli ordini, che è stata fatta sotto il fascismo, l'ordine dovrebbe garantire che chi fa parte dell'ordine è una persona per bene, punto numero uno. Poi il fascismo ci aggiungeva che avesse anche delle idee politiche corrette, e questo qui ovviamente è una cosa da buttare nel cestino, è ovvio, però che fosse una persona per bene, che non commettesse reati, eccetera, tutta una serie di garanzie. L'ordine queste cose qua non le dà. Segnalo il caso di un medico condannato ad Agrigento con sentenza definitiva per voto di scambio in un ambiente, voglio dire, come quello siciliano, che è mafioso, condannato con sentenza, ripeto, definitiva, che non è mai stato espulso dall'ordine. Quindi l'idea è l'ordine. Quindi l'idea è. Ora parliamo? Vediamo un nuovo ordine per le ostetriche, dopodiché, se un'ostetrica commette un reato comunque gravissimo, bisogna aspettare la sentenza di Cassazione, ma chi se ne frega, dai. Insomma, cioè, quindi Stella dice: l'ordine in linea di principio potrebbe essere valido, ma non funziona. E visto che non funzionano, e funzionano male, e non funzionano veramente a tutela, allora. Insomma, o cambiano oppure vanno tolti, no? Quegli ordini messi così, Stella. Esattamente. Se un ordine deve aspettare una sentenza in Cassazione, poi cosa ce ne facciamo? Basta fare una regola che chi è condannato in Cassazione è espulso, punto e fine. A quel punto l'ordine a cosa serve? A niente. A fare amabili riunioni in compagnia, a chiacchierare insieme sul ruolo, la deontologia, eccetera, tutte cose ridicole che portano l'ordine degli avvocati ad accettare anni per mettere fuori Previti e contemporaneamente condannare con una cintura l'avvocato Guarienti di Verona, perché persona spiritosa girava con un finto cellulare per prendere in giro quelli che sono sempre attaccati al cellulare. È un ordine che tiene dentro Previti censura Guarienti è ridicolo. Che storia è questa di questo avvocato? Andò addirittura in ricorso, ovviamente, e alla fine furono costretti ad assolverlo, perché era una cosa talmente ridicola la censura su questa motivazione del cellulare falso, e lui per prenderli in giro giustamente si presentò all'ordine a Roma con una scarpa nera e una scarpa rossa, come a dire che non è quello che fa l'avvocato per bene o l'avvocato per male. Io preferisco un avvocato con una scarpa nera e una scarpa rossa che un avvocato che ha a che fare con i mafiosi nel modo non corretto. Poi va bene così, è pure rosso-nera i colori che a me piacciono. Noi ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi ripartiamo. Ci sono sì effettivamente molte critiche anche che arrivano via SMS alla senatrice Boldi, che risponderà. La critica più dura, le dico questa senatrice, è: ma come ci vuole tenere nel 1800 questa senatrice con gli ordini, le piccole caste? Allora, senatrice Boldi, detto che appunto l'88% dei nostri ascoltatori, che però la votano, è un campione che vota su Radio24.it, certo, dice li vorremmo abolire. Cioè l'immagine... Ma bene, mi scusi. No, aspetti, scusi, mi faccia... Io devo No, mi faccia fare la domanda, poi replica anche a Gian Antonio Stella. L'immagine che hanno molti italiani è di un'idea di volersi autotutelare, chiudersi in un fortino, cioè costituire un ordine per creare un qualcosa che sia un po' inespugnabile, non l'idea che sia una garanzia per tutti. Questa è la percezione di molti, insomma. Allora, quello che diceva prima il dottor Stella, che comunque, come ha visto, ha parlato esclusivamente, quasi esclusivamente di avvocati. No, adesso mi chiameranno tutti, ecco, il presidente dell'ordine degli avvocati. Sto parlando di ordini delle professioni sanitarie. Sì, ci sono anche i medici. È in parte vero. Io invece vorrei proprio spiegare che dal nostro punto di vista, non pretendo naturalmente che questo punto di vista sia condiviso, l'ordine è, ripeto, un falso problema in questo caso per quello che riguarda l'accesso, perché l'accesso è garantito a tutti i laureati di queste professioni e di queste classi di laurea. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna chiusura al mercato, anche se, ripeto, in campo sanitario a me non piace assolutamente parlare di mercato. Non solo, ma l'ordine deve garantire la preparazione, deve curare l'aggiornamento professionale, deve controllare il comportamento etico e quindi in ma questo tutti gli ordini deve tutelare l'utente. Ma questo tutti gli ordini, senatrice, certo, ma tutti gli ordini, voglio dire, uno si mette tutti uno statuto ordini, esattamente, tutti gli ordini devono fare questo, a maggior ragione ordini che si occupano, mi scusi, di una cosa molto importante, che è la salute delle persone. Ma la critica che fa Stella, mi pare di capire, Stella è questa, no? Adesso è caduta la linea, ma la recuperiamo, è che in linea di principio è così, ma poi non lo fanno, ma non è che non lo fanno, cioè non è che sto dicendo che gli ordini non fanno niente di tutto questo, sono una banda di disgraziati, però cioè, voglio dire... Se chiede la mia opinione, io le dirò che secondo me quando si riscontra un comportamento non corretto, l'ordine dovrebbe immediatamente sospendere e espellere. Sì, ma certo, ma sono degli ordini, mi scusi, che lo fanno, e altri dipende no. Anche dalle persone che sono in quell'ordine, in quella situazione. Non so, siccome abbiamo recuperato Gian Antonio Stella, la senatrice Boldi dice che l'ordine deve fare questo, deontologia, espellere chi è fuori. Vabbè, cosa me ne importa che dipenda dalle persone, o c'è una regola o non c'è una regola. Se dipende dalle persone, a maggior ragione aboliamoli. Cosa c'entra? E poi non è vero, la senatrice dice di non aver capito, però non è vero che parlo solo di avvocati. Ho fatto il caso di questo medico di Agrigento, ne faccio un altro, il dottor Miceli, condannato per rapporti con la mafia. Il dottor Cuffaro, che fino all'ultimo non è stato sospeso, e posso andare avanti. Vogliamo parlare degli ingegneri? L'ingegner Michele Aiello, proprietario della clinica Villa Teresa di Bagheria. E vogliamo andare avanti? Posso citarne 100 per seppellire sotto questi dati la senatrice. Il fatto è che è tutto legato, è tutto delegato all'opinione degli ordini, senza che ci siano delle regole molto precise, per cui ognuno fa quello che gli pare. A quel punto cosa ce ne facciamo? Con questa domanda io non so, vorrei sentire i due ascoltatori. Andrea da Rimini, buongiorno Andrea. No, salve, io sono l'editore del giornale dell'ingegnere, abbiamo 42.000 ingegneri abbonati, le posso garantire che lavoriamo con gli ordini fanno il loro mestiere, l'ordine tutela il cittadino, perché lei non si farebbe progettare la casa dove va a vivere da qualcuno che si presenta senza sapere che ha la qualifica per farlo. L'ordine controlla che vengono applicate le tariffe corrette, perché ogni volta che un committente sì. sente di essere truffato può chiedere all'ordine se è stato truffato o no, e l'ordine interviene. L'ordine organizza ogni settimana 4-5 corsi, almeno un corso alla settimana. Ce ne sono anche, insomma, l'ordine serve, l'ordine ci tutela. Lei dice, Andrea, l'ordine sì, ci tutela. E poi non possiamo continuare a fare demagogia con le leggi a personam, perché c'è qualche cosa persona c'entra? Famosa che viene trattata in maniera particolare, poi non dobbiamo andare a deregolamentare quello che per fortuna in Italia funziona. Va bene. Negli Stati Uniti sì. per diventare ingegnere ci vogliono 5 anni di tirocinio, poi si parla di liberalizzazione, 5 anni di tirocinio. Grazie Andrea, serve l'ordine, editore L'Ingegnere. Massimiliano da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica Massimiliano. Io qualche anno fa, da un avvocato, mi dispiace tirare sempre in ballo gli avvocati, ma non è successo così, ho fatto ricorso all'ordine per una spesa a me eccessiva di una lettera. Sì. Praticamente mi ha chiesto 900 euro per una lettera. 900? Accidenti. 900 euro. Era vergata con una stilografica a mano. Sì, tipo Savonarola. praticamente ho fatto richiesta, ricorso all'ordine, e l'ordine mi ha risposto: non è di nostra competenza. In che senso? Se io trovo un servizio non appropriato, farò ricorso all'ordine. Lei vuole sapere se era nelle tariffe, se era all'interno delle tariffe. Sì, esatto. Cioè, per una cosa vuol dire non è di nostra competenza? Che vuol dire? Di chi compete? Praticamente me la sono presa in saccoccia, appunto, e basta. Questo è il discorso. Ma perché non è di nostra competenza? Perché ha sbagliato l'ordine, non era iscritto allo stesso ordine, non era. L'ordine era quello di Verona, naturalmente. Ha detto che per loro non erano cose da trattare, non erano di loro competenza, loro sono lì per altre cose molto più gravi, naturalmente. Sì. Una lettera per 900 euro, non per naturalmente questioni di milioni di euro, ma 900 euro, insomma, effettivamente non faccia lo spilorcio e li tiri fuori. Ecco, questo l'hanno detto. Di qualche milione di lire, perciò. È chiaro, no, ma è chiarissimo. Gian Antonio Stelli, io ho 30 secondi, ma la difesa, la creazione. La voler difendere gli ordini, un po' visto che voi ne scrivete con Sergio Rizzo anche della casta, l'attacco alla casta è un po' un piccole caste, è un sistema di piccole caste, di ma piccoli fortini. Ma le cose si saldano, perché poi in realtà, come Giulio Tremonti ha cercato, secondo me giustamente, di andare a toccare gli ordini in una delle tante versioni di questa un po' assurda finanziaria, manovra di aggiustamento, voglio dire, c'è stata una rivolta per cui gli stessi fedelissimi di Berlusconi, quelli che tutti i giorni accettano anche che Rubi fosse la nipote di Mubarak, eccetera eccetera, hanno detto: noi questa finanziaria qua non la votiamo. Cioè, erano disposti anche a buttar giù Berlusconi pur di non toccare l'ordine. C'è uno studio del professor Antonio Merlo e di altri della Bocconi, che abbiamo più volte citato, che dimostra che chi fa una professione anche esterna, oltre a fare il deputato, ha un tasso di assenteismo molto più alto, e fa una cosa che in altri paesi più seri sono impensabili. Cioè, negli Stati Uniti, se tu fai il deputato, fai il deputato, che fai anche un altro lavoro. Allora, se sei pagato per questo dei cittadini, cioè. Per cui si salda la casta degli avvocati, degli ingegneri, di vari ordini professionali con la casta, diciamo, originale, perché in Parlamento fanno barriera. Io mi fermo qui e ringrazio Gian Antonio Stella, di cui ricordo con Sergio Rizzo Licenziare i padri eterni, l'Italia tradita dalla casta, e lo trovate edito da Rizzoli, così come ringrazio la senatrice Rossana Boldi della Lega Nord per essere stati con noi, con Alessandro Longoni in redazione, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. La linea va a Oscar Giannino, ci troviamo lunedì alle 7:20.